Uno, una passione, zada ragazzino, penna in mano, penna in mano, penna in mano. Giro, giro, giro, giro per il mondo e non sarò secondo. So bene che la vita mi presenterà il suo fondo. Racconti pure memorie, racconto storie, racconto frangenti di vita che non danno spazio alle parole. Io che sono ancora in prestazione, uno per il nome, due per chi mi ascolta con il cuore. Giudicare è facile se lo si fa da fuori. Il nostro mondo è viscido, infame, truffatore. La coscienza mi spinge a restare calmo. Avrei qualcosa da dire, ma di sicuro faccio il danno. Quindi nuovamente inganno me stesso e forse non resto sempre lo stesso. Porta all'eccesso ciò che è più spesso. Forse non esco, ma fa lo stesso. E questa roba la faccio perché mi piace. Io non invento storie, non le canto le stronzate. Le prestazioni, nuovo stile di scrittura. Lo sai cos'è che faccio? La faccio io questa cultura. Oggi non ho voglia di parlarti, faccio un giro in piazza, spero di beccare gli altri. Sono presa modo, ho bisogno di svagarmi. In giro per la city, ormai mi sa che faccio tardi. Oggi non ho voglia di parlarti, faccio un giro in piazza, spero di beccare gli altri. Sono presa modo, ho bisogno di svagarmi. In giro per la city, ormai mi sa che faccio tardi. Cresciuto in un paese troppo piccolo, precisamente un vicolo, ribattezzato col nome di Spigolo. Se senti quel che dicono di me, le peggio cose forse perché non sono nato in sto paese come te. Vivo metà tra il dire e il fare, ricordo di un'infanzia trascorsa giù in Brasile. La musica mi scorre nelle vene, la inietto a mine dosi per scordarmi delle pene. Tre, tre, tre sono gli elementi in prestazione, in prestazione, in prestazione. Sono soltanto parole, parole, parole. Una vita non mi basta per portare in giro prestazioni. Questa vita stringe il collo, adesso vedi da affrettarti. Il tempo per sognare, sai che io l'ho già lasciato agli altri. Oggi non ho voglia di parlarti, faccio un giro in piazza, spero di beccare gli altri. Sono presa modo, ho bisogno di svagarmi. In giro per la city, ormai mi sa che faccio tardi. Oggi non ho voglia di parlarti, faccio un giro in piazza, spero di beccare gli altri. Sono presa modo, ho bisogno di svagarmi. In giro per la city, ormai mi sa che faccio tardi. In questa vita resti una pedina, non ti puoi imporre. Se gioco con la sorte scelgo di essere la torre. Scorre il mio tempo, sopra sto tempo, scomporre a tempo. Ho già più senso e penso che se mi dedico sto verso sopra un altro pezzo, tutto sembrerà pazzesco. E penso che resti tutto troppo compromesso per potergli dare veramente un senso. E voglia di parlare non ne ho nemmeno tanta. Strada sono nato, non capisco chi si vanta. Ricordo per la tasca vuota, la cena salta. E quando per rispetto si partiva la ribalta. Io che ci ho provato in ogni modo. A casa non si mangia se l'assegno in banca è vuoto. Il mio nuovo scopo, uscire dalla di cui nuoto. Adesso faccio musica che è l'unico mio sfogo. Strada ragazzino, pende in mano, pende in mano, pende in mano. Giro, giro, giro per il mondo e non sarò secondo. So bene che la vita mi presenterà il suo punto, punto, punto, punto. Oggi non ho voglia di parlarti, faccio un giro in piazza, spero di beccare gli altri. Sono presa modo, ho bisogno di svagarmi. In giro per la city, ormai mi sa che faccio tardi. Oggi non ho voglia di parlarti, faccio un giro in piazza, spero di beccare gli altri. Sono presa modo, ho bisogno di svagarmi. In giro per la city, ormai mi sa che faccio tardi. Oggi non ho voglia di parlarti, faccio un giro in piazza, spero di beccare gli altri. Sono presa modo, ho bisogno di svagarmi. In giro per la city, ormai mi sa che faccio tardi.